Capitolo 8. Come acqua per il cioccolato. 11 gennaio 2019. Giardino incantato. Ricordo quel film che ho visto molti anni fa, che parlava di un'intensa e impossibile storia d'amore tra Tita e Pedro, agli inizi del Novecento nel Nuovo Mondo. E di come Tita cucinava e riversava nei suoi piatti tutte le proprie emozioni, contagiando poi i commensali con la risa o con il pianto. Il titolo, Como agua para chocolate, allude a una frase idiomatica spagnola che si riferisce ad una persona in preda alla passione e che è quindi bollente come l'acqua per fare la cioccolata calda in tazza. Ecco, così mi sento in questi giorni di convivenza con il mio ritrovato amore, con la passione che strabocca, straborda e non si contiene, rompendo gli argini come fiume in piena. I sorrisi, gli abbracci, i dialoghi fino all'alba, dimenticandosi della notte, rimanendo a contare le stelle con pazienza una per una. Vibriamo di una felicità che si vede da lontano. Adesso che sono spariti tutti gli amici della banda, adesso che finalmente ci hanno lasciato da soli a poter vivere questa emozione. Come quando si entra nel mare e le onde riempiono la bocca di sale e bisogna lasciarsi andare, fidarsi del momento, dell'acqua e del corpo che sicuramente galleggerà, perché ce lo insegnano le leggi della fisica ed Archimede. Ma la razionalità della scienza non spiega l'amore. Anche se abbiamo imparato a nuotare nelle storie della vita, non perdiamo la paura ai nuovi mari e alle nuove onde. Soprattutto quando ancora non so se tutto questo è reale o solo un'immaginazione, frutto della solitudine e della voglia di condividere con qualcuno il mio tempo e le mie emozioni. Buenos días, princesa. Wow, te ves bellísima, como una luna roja. Preciosa, ¿de dónde salió? Wow. Cucino con amore solo per noi due, adesso che il ristorante è naufragato. Lui esce al mattino e va a vendere il suo lavoro, come artigiano, lungo le spiagge dove ancora c'è un presidio degli ultimi turisti natalizi. Mi dice che non gli piace molto vivere qui e lo capisco perché il paradiso ha i suoi lati negativi. Spesso penso che ci siano persone fatte per vivere tra queste mangrovie ed altre che, per quanto lo cerchino, in questa baia non trovano mai il loro equilibrio. Lléname de besos la nevera, que estoy flaco de no verte. La pasada primavera la he pasado entera con la angustia de perderte. 25 gennaio 2019. Giardino incantato. Mi sono svegliata troppo presto, che il canto dei galli non mi lasciava dormire. Ritornando con i miei pensieri a ciò che sto facendo e come sto vivendo con lui tutta questa storia. E tutto a un tratto mi rendo conto che non sento nulla, che se lui sparisse dalla mia vita in questo istante sarebbe uguale, o forse anche meglio. Vedo la me stessa del passato e sorrido. Sento che questa storia non può funzionare, schiacciata sotto il peso di un patriarcato e delle sue conseguenze. Io adesso sono quella che lava i piatti, cucina e gli raccoglie le mutande dimenticate in giro. Sarà come sarà la magia del nostro rapporto. Sarà che devo passare attraverso questo nuovamente per potermi rendere conto che non sono più la moglie perfetta di nessuno. Un'altra volta mi sono messa nella tana del bianconiglio. Adesso facciamo un giro nel paese delle meraviglie. Attenzione, signora ama di casa, apro e c'è questa gran novità. Traemo una ranga dolce, jugosa, direttamente dalle partite della torre. Anche che vedremo 25, piatta un quinto della ranga, o la qualità tranquilla. Hola, hola, hola, hola, hola. bitácoras de derrotas y fracasos en ondas analógicas. ¿Cómo están, amigos? Hasta aquí todo bien. Disfruta nuestro relato. 30 gennaio 2019. Giardino incantato. Io hubo mil cosas que no elegí, que me llegaron de pronto y me transformaron la vida. Cosas buenas y malas que no buscaba. Caminos por lo que me perdí. Con l'arrivo dell'anno nuovo ho cominciato a collaborare con i volontari della radio comunitaria del Paraíso. Un'ora di trasmissione dal vivo, dove posso parlare di quello che voglio, senza troppi limiti. Non ho idea di chi mi ascolti. Gli autisti dei taxi, di sicuro. Le signore che stanno nelle cucine dei ristoranti sulla spiaggia. E alle volte gli amici. Invito alla trasmissione musicisti, sognatori, quelli che qui passano per caso. E tutto ogni volta si fa più interessante. Forse non sono trasmissioni radiofoniche perfette, ma ci credo molto nel potere delle onde analogiche, quelle che si possono ascoltare in qualsiasi luogo, solo con una piccola radio a batterie o magari a ricarica solare. Che me la dedicò questa meravigliosa poesia sobre la libertà de elegir la vita. Con l'idea che sì, il mondo finirà presto e che saremo costretti ad alzare lo sguardo dallo specchio nero dei nostri telefonini. Anche se qui poi, nel paraíso, internet arriva a singhiozzi, soprattutto la sera. Siamo abituati a rimanere giorni interi senza la linea telefonica. Per qualche palo caduto lungo le strade tortuose o per le leggi della metafisica della grande rete, quelle che non conosciamo ancora. In quei momenti, tutto va nel paraíso come deve andare. Lasciamo i telefoni a casa, a morire di solitudine. Camminiamo e ci salutiamo per la strada, nel lento scorrere del tempo. Nessuno si dispera alla ricerca del santo segnale, senza fretta, come il movimento delle onde di andare e venire di nuovo. A bagnarci i piedi e vaporizzare il sale sulle nostre ferite che si stanno cicatrizzando. Le ferite del corpo e le ferite dell'anima. Llevando como el caracol la casa puesta y el azar van los ninjeras. Todos los días. Ellos no saben del dolor que a cada boca hay un cantar y a gritos dice. Sus alegrías. Cuando arriva la sera, resta a guardare il lento movimento del giardino. Si avvicina a faccia d'angelo con il suo sorriso bianco e grandissimo. Si siede sugli scalini accanto a me. Mi racconta che stanno accadendo cose brutte, molto brutte tutto attorno, che cambiano gli equilibri del traffico e che lui deve anche dei soldi. Ma io lo interrompo e gli dico che non mi racconti nulla, che non voglio entrare nelle sue storie di pistole e di brutte persone. Si scusa, una volta ancora per i fatti della notte della festa, di quando avevano giocato agli Scarface con i miei ospiti. Poi ci ridiamo sopra, come le vecchie storie da ubriachi, nelle quali tutto si perdona. Se ne va, oltre il filo spinato, ritornando a quella vita che gli hanno messo addosso, fatta di soldi facili e di potere. Una vita che lui non sa come lasciare. Corro al mondo, non so a dove vado. Perché quando si gioca a carte con certe persone, non ti lasciano facilmente uscire dal gioco. Sempre che tu non sparisca nel nulla, senza lasciare traccia alcuna, nemmeno tuo ricordo. Non so llorar, nella vita deseo tu paz. No tengo norte, no tengo guía, para mí todo es igual. No tengo norte, no tengo guía, para mí todo es igual.